parte di come si fa il problema. E beh, Biondo, su che andiamo. Attento Billy, su che andiamo. Luca Flipper. Dallaro. Ma tu non devi dire così, Natale. E come devo dire? Tu devi dire, c'è qualcuno che vuole parlare, perché ascolta, quindi è un bel. Vabbè, faremo così allora, va. Tanto questo è il calone dei morti. È appunto per quello, devi dire, c'è qualcuno che vuole parlare? Allora, forse c'hai qualche possibilità in più, forse. Forse. Ciao, ti compri una Grazioli, come dicono, il continente. Esci più forte, ti ascoltano più lontano. Sì, ci compriamo la Grazioli. Buona è la. Eppure dicono che è il topo quelle antennali. Dato che ce l'ha. E tu li all'hai? I fatti della Divina Commedia. Ah, io no, io c'ho un'auto costruita con canna da pesca pure. E boh. Se l'avessi avuta, guarda, l'avrei già messa in vendita. Sì. Chi ti pesa la Grazioli? Sì, sì. Ah, ma quanto pesa, sì. Di più. Se non è circolare, ma non è conica. Se la vedi dal vivo ti metti le mani in testa. Minchia. E me lo posso immaginare, cazzo. No, poi c'hai i radiali che sono ben lunghi, non è come la mantova, no? Il cagno radiale, 2,60 in balsia. Una salute a 100. Sarà pure bella come antenna, ma lui. Bella Giulio, che così fischia la notte. Eppure io c'avevo la mantova, ci dormivo sotto praticamente. Solo che giustamente a quell'altezza non li senti i radiali, se tu ti abboni a mezzo metro dalla capricciuta i radiali già lo vedo, intendi? Cazzo di rasoia bruciava. Ecco, forse la intendi, si vede a mezzo metro dalla capricciuta, però cioè, ci devi avere il letto sotto proprio per sentirla. Ma io questa è la prima cosa che sento, non ho mai sentito nessuno lamentarsi che sentiva i radiali dentro casa. Ma io non c'avevo la mantova 5 e non sentivo niente. E allora la tua era difettosa. Ah, difettosa era la mia, ecco perché non li sentivo i radiali. Adesso scrivo a darmi una Grazioli che fischi, però se no non ne prendo. Con quello che costa. Questa quanto costa. Ma è Grazioli, capito? Non ha filo elettrico tra connettore e antenna, no? Che stava la piattina, 5 kW di pura, che cura capirà, si dice potenza al vero, anche grandi prestazioni, dice che dà, così fanno vedere nei video, poi non so. Infatti, bisognerebbe provarla, troppo dopo è quella farina che hai tu, io purtroppo ho catà, mio... Giumi sono 50 pagine, lo godo, lo... A Giumi mi invio da locaccio di Giro Bambino. Ma è in italiano poi, Emi. Ma soprattutto, Alberto, mi il manuale. Ma se non lo so se mi ha dato a me, non a me. Questo l'ho preso dall'Express, l'ho preso. Ma a me mi hanno dato quello veloce, quello piccolino, no? Io per letto non uso. Però quello manco guardatolo. È stato un momento però dove... Ma io ho scaricato... Tantissimo, te lo faccio dire da nipote, cioè quando ha ricevuto lo... Quello PDF mi ho scaricato. Sì, è vero, è stata un'emozione. Ma quando imposti la radio così per come la devi usare, ma non ti sei fiato, ma sta lì. Non ti serve l'altro. Sì, lo so. È importante, certo. L'altro lo so usare in tempo strada. Ma chi c'ha? Mi arrivi da oggi. Questo collegamento con un saluto. E non so che pesci prendere. Poi il cavo, io sto usando quello del GT3. Capo del computer. E ne ho due di quei capi io. C'ho anche CIRP, però quello a bisogno non funziona, che vecchio. E ci vuole il CIRP aggiornato per poter funzionare su quella lì. Ti ho mandato il software da usare. Ah, me l'hai mandato? No, non ci ho fatto caso. Scarichi quello direttamente. E da lì poi mi posti il film che vuoi. Sì, siamo un po' di fortunati, la mia nonnina è vissuta fino a 101 anni è un macello, perché una la devo lasciare per forza così, perché l'altra l'ho data a quell'amico, no? Io vedevo sempre che tu dalla nonna. Un'altra me ne dovrei comprare per modificare l'apparecchio del cazzo che voglio io. Chi c'era la così normale? Ma se tutti si prendono un 88, una coppia di 888, paghi su chi deve essere dei vizzini, a voi le venire a fare i buchi. Sì, lo so. Io gli ho regalato una coppia di quelli lì, ce l'avremo. Lei ha fatto male, anche per quella questione là che stavamo dicendo. Capito? Quello tramite il computer lo imposti, in quale canale vuoi impostarlo. Poi c'è PMR, l'PD. Sì, ma c'è la potenza troppo alta quello. Adesso che ci penso, gli 888. Perché mi pare che escono con 4 watt, una cosa del genere. Invece questo l'ho messo a L, brutto. Proprio, ma non c'è è nuda, nessuno. E infine gli ho messo lo scrambler. Solo che fa un fruscio verso questo scrambler. Ma perché fruscio? Ti fa questo fruscio qua quando lo inserisci, un fruscio fa. Io li avevo impostati nell'888, funzionava benissimo. Lo scrambler c'ha l'888. Sto inserendo anche una volta, anche il VAT tramite computer sempre, perché quelli sono tra solo tramite computer. Ah, ma non lo sapevo quello. Io l'ho regalata una coppia nuova, Antonello l'avevo regalata, e dice vieni ma travagli. E glielo ho regalato. Allora sto venendo a leggere la coppia. Sì, c'è uno scrambler anche. Sono PMR LPD, scrambler, un potenza regolabile. Che è giusto da una volta devi fare qualcosa, lo devi fare tramite il computer naturalmente, perché non ha display quel. Lo so. C'era 16 canali, mi sembra. Io ne aggiungo uno, mi scatolato ancora, con il suo caricabatterie e tutto. L'avevo comprato e forse l'ho usato una volta. E noi lo usiamo tipo telefono, mica, non c'è sempre il telefonino. Ho detto, ma un video, un coso di buono, quanti di già mai. Si toffoli. Si buono, due barattoli con un filo. Chiaramente. Sì, e poi vediamo un bici, tipo una nave. Ma, così dicevano prima. Con due barattoli e un filo. Io c'ho anche il Mau Mau, però il Mau Mau non è a scrambler. GT3 mi paesi, informati che c'ho quello lì. Se no mi uso il GT3 e quello là, mi metto il film e tutto e me lo uso come come quello che hai tu. Billy, su che andiamo? Su e me, Brigido. Ehi, Biondo. Allora, montato hai, Brigido. Ehi, Natali, domani mattina, 5:30. Compito. Io me ne devo, mercoledì devo andare a accompagnare mia moglie Catalina per rinnovarsi il coso, come si chiama, l'esenzione del ticket, va, fanguarda. Sì, a tempio. Sì, c'è l'esenzione in chibi, non ti basta più. E poi adesso è a giorno, no? E c'è il lunedì e il mercoledì. Mercoledì o martedì? Perché siamo martedì e... No, che abbiamo guardato col tablet e c'è lunedì e mercoledì. Ah, e vi attento, dice. Scusa Manuel, mi sono dovuto spostare che ha telefonato mia zia. Sì, guarda che ho sentito il mio collega, è domani, non mercoledì, mercoledì non c'è. È martedì e venerdì. Nel tablet c'era scritto il lunedì e il mercoledì. Ah, martedì, giovedì e venerdì, sì, ho guardato nel messaggio. Martedì, giovedì e venerdì, perché ci lavora il mio collega lì. L'esenzione del ticket. Lui è un autore. Allora vado giovedì. Sì, signora, martedì, giovedì e venerdì. Assolutamente mercoledì non ce n'è. Vabbè, adesso glielo faccio scrivere che è giovedì. A Chiarisetti deve essere in chili, se no è un macello. Io alle 7 devi essere lì perché sennò poi non c'hanno più biglietti, non c'hanno più numeri. Infatti c'è già gente lì alle 7. E anche non lo so, c'è il mio collega lì, che infatti mi fa male quando devi andare, dimmelo che ti prepara il numero. Andiamo, non andiamo, cazzo! Non andiamo proprio bene. Cazzo di euro! Curioso. Scusa. E allora? Davvero. E davvero? Sacri. E beh, cinco. E beh, fiore. Tutta gonfia, sono mi. Andando. Che si dice, lo è? Oh, signor. E beh, ditti di tante. Ciao, Tatalice. Ciao, Tuni. Chi c'è questo canale? C'era Ginko. E Luca, e io. E anche Luca, l'altro Luca, però tutti i muti si gaglia, è proprio un canale di mucchi, dice. Canale di mucchi. Manuele. Manuele è sparito a mangiare. E evidentemente appena smontato deve essere che ha il poveraccio. Ecco. Io stavo facendo qualcosa sempre sì da poco fa, guarda. Adesso mi sono fermato. Va subito me, deve fare qualche cosa a magna pure io. Mi sto facendo qua la pasta e pisilli, ho messo di tagli rigati, pisilli e patate, pezzi piccolini così si sciocono, fanno quello adesso il suo, il brodino, dai. Sì, lo so, lo so. Buono anche quello. E qualcosa di caldo, leggero, dai, questo è freddo, freddo, una tariffa che le dai. Sì, infatti, io a pranzo ci ho fatto muretta, fatti un conto. Cosa hai messo, salsiccione? Sì. Buono, in che, se c'è un po' di la muretta io, oh yeah. Sì, con questo tempo già va bene, capito, l'hai tutto. In Italia. Scappa, è il momento giusto, ideale. E me la faceva la mamma della mia ex tempo fa. Ma sto parlando di 7-8 anni fa, mica. Sei una di allora che non ne manca. Da un metro giù in zeta, io non me ne posso. Ora gli ho giocato in casa, mi ci ho messo anche il telo al dottor Obraccio, che deve chiamare se mi giretti. Cazzo, mi è casino, non ne posso più. Ui, ui, mi ha fatto un braccio, non te lo posso raccontare. Ve lo posso immaginare, Natalia. Anche ti vediamo un attimo di come brinca la muletta di mica braccio di Vazzevedo. No, a brincare no, però cazzo, devi stare sempre gli denti, mamma mia. E io ho detto, se non ti metto un telo a braccio, guai, capito? Sì, sempre ci rende, io ce l'ho pericato, vabbè. Ma c'è quella valpo musichiamo, perché si diceva che si fa di fresca con questa. E con quella valsugana, sì. In 8 minuti è pronta. Sì, ma dice 8 minuti niente, però. E beh, e tu la vuoi senza ira? Senza ira non fai, no? Basta costruire un marchigino che cazzo della sura. Uno di questi macchinari Fabio mi fa piacere, ma dice planetari ve l'ha voluta, e gira la sura. Ah, già qui lo planetari, e così avessi risolto tanti problemi. Non c'è poco rugare, fantasmi. Ma da fa è entrato Luca, Manuele, Luca Flipper c'era. Emanuele sarà dormente, su, si è lavorato di giorno, è cracco. No, Emanuele stava appena smontando, deve essere, che ne so, magari è andato a mangiarsi qualche cosa. Lui ci ha sempre scatto a fette. Ed è ferito e deve mangiare fai forza, bovaraccio. Quindi ci trovava con tutti gli storie che fai, mamma mia. Io quando facevo 12 ore Maria non finiva mai. Ma non si immagina. Lo so, e lui se perde qualche etto, deve recuperare ma con 3-4 kg di colpo. Ma poi quando sei di notte in clima era 3 gradi, gatto, vi sarà un freddo, gatto, mamma mia, che lavori. Sai che stamattina io sono uscito molto presto, che ora erano? Le 6 mi sembra. L'ombretto, ghiaccio, infatti andavo a passare spazio, ho detto la pannato, e tra, e su ghiaccio birra. Ah, un bel ghiacciato, rinunzi, sotto lo zero è andato. Perché fa cala un bella temperatura. Allora. Va bene, dai che mi sposto di nuovo, vado a girare queste patate che dopo metto la pasta per pisciti. Dai, continuo a cucinare io, Natali. Salutami pure e ci sentiamo dopo, se mai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Tony.